Diario afghano. Kabul, ore 23. La mia squadra, su due lince, esce da Camp Invicta per una pattuglia notturna nella valle di Musai. Cosa c'era a sinistra? C'era un gruppo di uomini al centro della rotonda. Hai pensato che fossero degli insorti? Sì, è meglio stare all'altro, vado loro. Abbiamo avvisato gli altri. Dobbiamo prima raggiungere la FOB, la Forward Operative Base, un fortino costruito nella valle di Musai. Le strade sono buie. Usciti dalla base, percorriamo Jalalabad Road, che collega Camp Invicta al centro di Kabul. Il warning di cui abbiamo parlato nel briefing prima della partenza, la minaccia che potremmo incontrare nel nostro percorso è quella di imboscate, di attacchi degli insorti che potrebbero attaccarci con armi leggere o con razzi anticarro. Gli italiani hanno subito attacchi da parte degli insorti con Kalashnikov e lanciarazzi RPG nel corso delle pattuglie fuori dalla base di Musai, in media un attacco al mese. Poi ci sono i numerosi IED, gli ordigni improvvisati, e le mine anticarro. La mia squadra deve scortare un gruppo di militari che hanno passato due giorni sull'Observation Post, una postazione da dove si osservano i movimenti sospetti nella valle. Il mio lince e gli altri tre hanno il compito di bloccare gli accessi alla strada percorsa dai nostri commilitoni che rientrano alla base. Tutto avviene nel buio più completo con l'utilizzo dei visori notturni. Ed è tutto da Cristina Balotelli, che vi parla dalla valle di Musai, in Afghanistan. Sono Alberto Negri e anch'io ho pagato 5 afghani 10 centesimi di euro per entrare a Kabul nel paradiso. Così si promette all'ingresso della tomba di marmo e alabastro di Babur, discendente di Tamerlano, fondatore della dinastia Mughul, che sotto la montagna fece costruire giardini, fontane, piscine, a cui si aggiunsero un palazzo, un caravanserraglio e una moschea. Il palazzo di Babur cadde completamente in rovina per l'incuria e le guerre. Negli anni 90 non si poteva metterci piede senza il rischio di saltare su una mina. I giardini dell'imperatore sono ora tornati a fiorire, le mura e i palazzi ricostruiti pietra su pietra dalla fondazione dell'Aga Khan. Si tratta del più grande restauro dalla caduta dei talebani. Intorno, nella piana del fiume Kabul, sono ammassati quasi 6 milioni di abitanti, 50% senza acqua, 60.000 bambini di strada abbandonati, mentre l'elettricità arriva a tutti, ma per un giorno soltanto, con la festa di fine Ramadan. Eppure, il picnic nei giardini di Babur, nei giorni di festa, è già diventato un'abitudine per migliaia di abitanti di Kabul.